italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. E di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Vi ricordo come sempre i nostri contatti, li trovate anche sul nostro sito internet, c'è la pagina Facebook, l'account Twitter e tutto quanto. E come sempre sul sito di Radio 24 poi troverete qualcosa di quello di cui stiamo per parlare, ossia i numeri di questa settimana, come sempre con Riccardo Puglisi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. La settimana scorsa ci siamo concentrati sui candidati alle primarie o presunti tali. Questa settimana parliamo di Beppe Grillo. La settimana scorsa abbiamo parlato solamente di Twitter, questa settimana andiamo a vedere anche Facebook e blog. Allora Riccardo, al di là dei numeri, iniziamo però da Twitter, al di là dei numeri che sono ovviamente pazzeschi, Grillo è intorno quasi a 700.000 followers, sono 660.000, il triplo di Vendola, quattro volte quelli di Renzi o di Bersani, ci sono dettagli interessanti ancora una volta sull'interazione che Grillo ha con gli utenti. Esattamente, direi che Grillo è assolutamente una portaerei nel mondo di Internet 1.0 e anche nel mondo di Internet 2.0 di Twitter e Facebook. Ho analizzato un periodo di tweet che parte all'incirca da luglio e ci sono all'incirca un 900 messaggi mandati da Grillo su Facebook. L'idea è che Grillo usa il mezzo, ma non lo usa in maniera molto interattiva, cioè non dialoga assolutamente con gli utenti. Al limite qualche retweet. Esattamente, non c'è la dimensione del dialogo, del botta e risposta, ma c'è la dimensione del qualcuno manda a Grillo qualcosa che a Grillo interessa e Grillo lo rimanda ai suoi, diciamo, miriadi di follower. Percentuale di rimandi ad altro e quindi di link postati su Twitter pazzesca, intorno all'84%. Questo vuol dire chiaramente che non è il mezzo espressivo preferito, cioè si usa Twitter per rimandare ad altro. È un porto per andare altrove, direi. E quindi veniamo a questo altro, Riccardo, insomma, da cosa partiamo? Da Facebook? Su Facebook c'è una presenza di Grillo assolutamente importante, ci sono un numero di likes, cioè di persone che dicono che mi piace Grillo, quasi che oramai arriva al milione, arriva a 950.000, quindi siamo al milione. Qua si può vedere i post che sono stati messi da Grillo, ho analizzato all'incirca un centinaio di post e in questo caso sono andato a vedere il tipo di linguaggio che viene utilizzato in questi post. Che è la cosa più interessante perché poi ci dà una misura della qualità di quello che viene postato. Prego. Diciamo che c'è un aspetto un po' solipsistico, nel senso che Grillo parla molto di se stesso, parla molto del movimento, quindi parole come 5 Stelle, programma, politica, sono frasi, sono espressioni che compaiono spesso, sono quelle che compaiono più frequentemente. Direi che su Facebook rispetto a Twitter ci sono molti più riferimenti a livello locale, ovvero sia riferimenti alle realtà in cui Grillo ha, il movimento di Grillo, per esempio una persona di Pizzarotti, ha un ruolo direttamente dirigente, cioè un ruolo di, è il politico in carica, e quindi per esempio compare la parola Parma, compare la parola Iren, comparano parole relative alla questione dell'inceneritore di Parma, ma anche riguardo alle elezioni future. Quindi ci sono molti riferimenti, ad esempio, ancora con link a filmati eccetera eccetera, alle elezioni in Sicilia. Chiarissimo, lato commenti, perché insomma molto si è parlato del linguaggio dei cosiddetti grillini, parola che non ci piace, chiamiamoli insomma aderenti o vicini al Movimento 5 Stelle, come di un linguaggio violento. Che cosa emerge dai post, dai commenti sul Facebook? Anche in questo caso c'è un quantitativo di roba molto ampio. Io ho preso i commenti al post sul manifesto elettorale perché mi sembrava significativo dal punto di vista generale. In questo caso devo dire le parole chiave che sono messe da Grillo nella sua pagina ricompaiono quindi c'è una certa direzionalità, quindi comparano con le parole come programma, politici italiani, movimento, politica, ma compaiono, e questa è la cosa interessante, e quell'elemento del noi versus contro loro, quindi parole come gente, cittadini, persone, popolo, e compare anche una parola abbastanza frequentemente che è basta, quindi queste sono alcune espressioni forti, ma non diciamo turpiloquio non compare. Può non anche compare. Essere che ci sia talmente tanta variabilità nel turpiloquio che io non lo vedo, perché tra le parole che ciascuno è molto creativo nel suo nella sua parola nel mettere, quindi non ricorrono spesso. Esatto. Infine il blog. Il blog, anche qui abbiamo io ho preso un certo numero di post, in questo caso di meno, perché sono più lunghi, sono testi più lunghi, sono testi come articoli lunghi, e in questo caso devo dire che c'è un riferimento più polemico rispetto a Facebook e Twitter, più polemiche a livello nazionale, quindi compaiono internazionali, quindi compaiono espressioni, nomi come Monti, presidente, Napolitano, qualcosa ancora sulle questioni locali, ma per esempio compaiono anche questioni relative ai fatti internazionali, come per esempio la parola Grecia, eccetera, eccetera. Quindi si vedono elementi di una strategia, adesso senza entrare nella teoria della cospirazione, come qualcuno purtroppo malamente ha tentato di fare, ci sono degli elementi di una strategia che va studiata. Io ho provato a fare qualcosa, ma ci sono degli elementi di sistematica decisione su quale materiale mettere in ciascuna parte. Questo è quello che ho visto. Terremo sott'occhio, grazie come sempre a Riccardo Puglisi anche per questa settimana. Buona giornata, Riccardo. Buona giornata anche a voi, anche a te. Ciao.